收益，轮到我的梦想要实现了。 醒醒了，不要轻信稳定收益的保证。新广告法颁布实施，招商投资广告应当对客户。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 你好，亲爱的朋友，欢迎光临歌舞剧场，我是你的朋友古月。今天为你带出的是威尔第的三幕歌剧《茶花女》。这部根据小仲马的小说改编的歌剧1853年在威尼斯进行首演后，很快就得到了全世界的赞誉，成为了各国歌剧院中最受欢迎的作品之一。难怪《茶花女》的原作者小仲马要说，50年后也许谁也记不得我的小说《茶花女》了，但威尔第却使它成为不朽。下面让我们一起来分享其中最经典的曲目和唱段，由帕瓦罗蒂和萨斯兰演唱，波宁吉指挥伦敦歌剧院管弦乐团和合唱团演奏演唱。 di piante i dolci freddi sui dall'amore, poiché quell'occhio al cuore ogni possente va. Misterioso Thank you. si per me lasciò novizie, amori e le pompose feste ove agli omaggi avvezza vede a schiavo ciascuno di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameni luoghi tutto scorda per me. Qui presso a lei io rinascere mi sento ed al soffio d'amor rigenerato scorrono le gaudi suoi. Tutto il bollenti spiriti, il giovani ardore, e la dentro col placido sorriso dell'amor, dell'amor, dal di che disse vivere, io voglio te. Disse vivere io voglio a te fedela, sì, dell'universo in me io vivo, io vivo quasi, io vivo quasi in cielo, io vivo in cielo. Dell'universo in me, io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in cielo. Del commise fu la mia signora, perché voglio ricordare tutti quanto il cuore possiede, che mai sento lo spigli grande a vivere qui stringhi e facevi il silenzio imposto imposto or va bisogna a Parigi, or vanne andrò a Parigi, questo colloquio non sappia la signora il tutto l'anno rimarare. Oh mio, rimorso in faria, io dissi tale errore, ma il tuo sogno a frangere di verri Questo, ma sì, questo, ma sì, questo. di sfide e ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in straniero suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà il suo perdono. Io curverò. Curatevi, portate un avvenir migliore. Giorgio Germò. Ma il dottore a sperar pure mezz'ora. Thank you. 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道，有限调频98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 欢迎继续收听歌舞剧场。刚才我们听到的是威尔第的歌剧《茶花女》当中的精彩选曲。下面让我们分享几首经典的芭蕾舞音乐。亚当的芭蕾舞剧《四魔鬼》当中的选曲，由理查德·布宁格指挥伦敦交响乐团演奏。 Thank you. Thank you. 今天的歌舞剧场和你分享的是威尔第的歌剧《茶花女》以及亚当的芭蕾舞剧《四魔鬼》当中的精彩选曲。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you. 歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。 快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 真正的女神不一定长发披肩，也可以潇洒干练。 真正的女神不一定全身名牌，也可以一身戎装。 真正的女神不一定来自秀场，也可以走进军营。 来当兵吧，在军营里遇见最美的自己。